I got the key to Gramercy Park. It wasn't meant to be starved. Place, wine, revenge, at any time. When you were inside and you thought to take a walk in the park, think someone's about to be carved. Up on the other side of the undersea, to the boulevard of broken dreams, to find the key to Gramercy Park. I got the key to Gramercy Park. Oh, where it's safe to be afraid of the dark. Maybe there we can fly by the heavenly stars. But I might miss bringing it to the bars. Up on the other side of the undersea, to the boulevard of broken dreams. Park. In the autumn time, my mother speaks through evil eyes and make-believe. So where are we there, Mr. Gramercy Park? I got the key to Gramercy Park. Oh, where is it to be afraid of the dark? Or maybe there we can fly to the heavenly stars. But I might miss making it to the bar. Never look at the other place. Stay with what's pristine and touches you. Out of a thousand away. Something that could mean so much to you. I've never seen the golden cage. The medium mass has yet to still say. The simply pass or rise from the grave. But I might miss bringing it to the bars. Now I've got the key to Gramercy Park. I'm away, I'm alone, I'm afraid of the dark. Ecco un figlio d'arte, ma di quelli un po' fortunati, perché la mamma è Cher. Il padre Greg Allman, il patrigno Gene Simmons. Cioè ragazzi, se non trova lavoro questo il cantante dei Dezzi, vuol dire che non ce n'è più per nessuno, che è uno più raccomandato di questo. Comunque ha messo in piedi la sua band, i Dezzi, questa era The Key to Gramercy Park. Lui ai tempi era diventato, ovviamente con questi genitori, molto amico del cantante dei Korn, Jonathan Davis. Jonathan Davis, avendo un'etichetta discografica, gli ha detto: ma dai, adesso vediamo di collaborare insieme. Purtroppo però grossi numeri non ne hanno fatti, ma non sono nemmeno passati inosservati. Se per quello, saluto Simona. Stiamo parlando di questo ospite che abbiamo di nemmeno due mesi, un cagnolino bellissimo, e praticamente sta giocando con qualsiasi cosa. In questo momento sta dormendo. Il problema è che non sa star solo e quindi non riesco a muovermi dallo sgabello. Praticamente rimarrò qui incollata fino alle 14. Ma è meraviglioso. E dice: se ti tromba il piede è per dimostrarti affetto. È troppo piccolo per essere già un procello. E lo fanno anche le femminucce. Bene, bene. No, perché insomma avevamo questo dubbio. Mi ha detto: ma come mai già così piccolo che comincia a far festa? Invece no, allora ci dimostra affetto. Andre dice: ma ho capito bene, la strip parade. No, street parade. Dalle 14 a mezzanotte a Como, non strip parade. Saluto anche Glemi, dice: bell'inizio con i Bauhaus. Assolutamente. E dice: per entrare in chat basta registrarsi alla famiglia, cliccare su chat e scaricare Mirk, e poi il PC si collega in automatico alla chat, ma bisogna aspettare qualche secondo e il gioco è fatto. Beh, esattamente quello che avrei consigliato a Sab da Genova. È che era questione veramente di minuti, e l'avrei detto, cioè l'avrei, sì, guarda, mi hai rubato le parole. Saluto anche la Scuta Sister, dice: io e mia sorella ci chiedevamo come sarà senza Rock FM, e la risposta può essere solo una triste, desolato, vuoto, incolmabile. Eh sì, ci mancherete. Ma anche voi ci mancherete veramente un sacco. Ma infatti io cerco di non pensare ancora alla cosa. Cioè, purtroppo mi viene in mente spesso e volentieri, però... No, adesso siamo in onda, non ci pensiamo. Vi lascio con i Paramore, questa Misery Business. I'm in the business of misery, let's take it from the top. She's got a body like an hourglass, it's ticking like a clock. It's a matter of time before we all run out. When I thought he was mine, she caught him by the mouth. I waited a long while, she finally set him free. I told him I couldn't lie, he was the only one for me. 2 weeks and we caught on fire. She's getting out for me, but I wear the biggest smile. Lo mettiamo tra virgolette, pubblicato il loro secondo album Riot, ma stanno già pensando a quello che sarà il terzo. Infatti in questo periodo stanno scrivendo diverse canzoni. Erano i Paramore con Misery Business, ma parliamo ancora una volta di Courtney Love. Questa volta nessun gossip, nessuna notizia legata al suo rientro in clinica, ma lei passa per dei saluti. Poi noi ovviamente pensiamo che lei passi per altri motivi, ma no, lei passa a salutare delle persone che conosce, non perché lei ogni tanto dà i numeri o torna a fare uso di sostanze, no, assolutamente. E comunque Courtney Love aveva scritto le canzoni per il nuovo album insieme a Billy Corgan e insieme a Linda Perry. È impazzita, è tornata in studio, ha cancellato tutto, ha detto basta, queste canzoni mi fanno schifo, ne voglio scrivere altre. E quindi se l'album doveva uscire in questo periodo, ovviamente a questo punto dovremo aspettare ancora un bel po', visto che hanno iniziato nuovamente tutto il lavoro riguardo al nuovo album di Courtney Love, che per il momento è ancora intitolato Nobody's Daughter. Vedremo cosa ci combina. Intanto rispolveriamo ancora una volta il capolavoro delle Hall, ovvero Live Through This, dal quale ritroviamo la bellissima Doll Parts. I am yeah, they really want. Cover di Holy Diver di Ronnie James Dio. Questa era invece la versione dei Killswitch Engage. 12:53, saluto Cosi. Dice: a che ora inizia la festa domenica alla Flog? Allora, il 1° giugno, lo ricordiamo ancora una volta, saremo al gran completo, tutta la famiglia alla Flog di Firenze, tutta la famiglia, ma praticamente il vero senso della parola, visto che ci saranno le famiglie vere e proprie di alcuni, ovviamente non tutti, componenti della radio, fidanzate, fidanzati, insomma veramente ci saranno tutti al gran completo il 1° giugno alla Flog di Firenze. Per quanto riguarda l'orario, caro Cosi, ancora non lo so, però ovviamente ne parleremo ancora spesso e volentieri, quindi appena decidiamo il tutto vi faremo sapere. Saluto anche Giovanni, dice: sono ancora in tempo per ricevere una patente da vero rocker? Ma penso di sì, anche se dovresti chiedere giustamente ad Ariel. Risaluto Glemi. Glemi stava pensando ad una festa che abbiamo tenuto anni fa al Ministri di Prato. Mamma mia, ricordo le serate, ricordo a un certo punto il DJ Ariele una sera in un'occasione è saltato così. Non aveva voglia di fare la fila al bar, è saltato dall'altra parte del bancone, si è fatto direttamente il drink. Ricordo un volo mostruoso mio, ovviamente, al Ministri. Non avevo visto tipo 20 gradini, li ho fatti tutti col culo, come al solito. E ricordo, ovviamente, ma tutte le serate della radio. Proprio ieri sera ci stavo pensando. Stavo pensando a tutte le serate con i ragazzi e le feste della radio. Mamma mia, quanti bei ricordi. Un bacione a Fungo, saluto anche chi mi scrive un sms dalla Romagna, un bacione anche a te. Vi ricordo il numero 335-100-7777, claudia@rockfamily.it. Saluto anche Federica da Spotorno, dice: sono 18 anni che festeggio questo giorno, il 20 maggio, il mio compleanno con voi, sapere che sarà l'ultimo è tristissimo. Eh sì. E anche ieri sera stavo pensando a questa cosa, tutti ai capodanni, insomma, ai Natali, alle mega dirette di Natale che abbiamo fatto qui in radio, a quando in un'occasione ho anche cantato in diretta, mi avete massacrato, ma l'avete fatto giustamente, capisco, lo so, però dopo diversi bicchieri di vino, non so perché, ma c'era forse in onda Wind of Change degli Scorpions, ho detto: ma perché non cantarla? L'ho fatto. Bellissimi messaggi arrivati poi in occasione di questa mia esibizione. Vabbè. Allora, a proposito di ospiti, a proposito dell'ultima settimana, invece i Lacuna Coil saranno con noi mercoledì 28 maggio alle 14. La band ancora una volta tornerà in studio. Beh, noi li abbiamo un po', se vogliamo, seguiti dall'inizio proprio della loro carriera. In ogni album, in ogni occasione sono sempre passati nei nostri studi. E molto volentieri li riospiteremo, ripeto, il 28 maggio alle 14. Lacuna Coil, questa è Within Me. from day one. Let's lay out in a peaceful stare into the stars. To clean my world where everything was tangled up. Now feeling clear with every moon. See the sun is shining. I awake to reason now. And I got some good house. Se vi piace Ben Harper, se vi piace Jack Johnson, a questo punto vi posso tranquillamente consigliare anche Xavier Rudd o Xavier Rudd, questo artista australiano. Lui è cresciuto surfando e suonando praticamente qualsiasi strumento, grandissima passione per il surf appunto, ma anche per la musica. Se non sbaglio è cresciuto anche in una famiglia di musicisti e quindi il ragazzo è già partito avvantaggiato e lui è proprio uno spirito libero, gira sempre... È il classico uomo che noi amiamo, almeno io, vabbè, i miei colleghi magari un po' meno, però quando può surfa sempre in giro con le infradito, quando può piedi nudi, ecco, ovviamente cosa che noi abbiamo sconsigliato per quanto riguarda la città di Milano, perché non è bello, e lui è così. Ripeto, a livello musicale ve lo posso consigliare se vi piace, come stavo dicendo anche qualche minuto fa, Jack Johnson e Ben Harper. E proprio, vabbè, sapete, Ben Harper e Jack Johnson sono molto molto amici, però anche ad esempio Jack Johnson con Xavier Rudd, quando possono, se la suonano, nel senso suonano insieme, perché se la suonano insomma era anche un po' non... poteva essere tranquillamente ambigua come, come cosa. Stargaze era il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. Adesso invece vi lascio con un'altra canzone molto tranquilla, fin troppo. I Radiohead sono molto molto presi in questo periodo, ovviamente per quanto riguarda il tour. Arriveranno per due date nel mese di giugno in Italia e terranno a Milano, entrambe sono già sold out. Una volta finito tutto il tour torneranno in studio a registrare e a scrivere ovviamente delle nuove canzoni. Radiohead, questa Jigsaw Falling Into Pieces. As you write my number down, just just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your breath disappears. No one wound up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been misshaped. We got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission. the hunter became a prey. Oggi abbiamo ritrovato anche White Stripes con Conquest. White Stripes che per il momento sono fermi. Allora Jack White ne ha approfittato subito per continuare il proprio lavoro con i Raconteurs e l'altra sua band, con i quali se non sbaglio arriverà anche nel mese di luglio. Ma a proposito di novità e di news, i Metallica l'altro giorno, un po' così all'ultimo minuto, hanno partecipato a questo concerto a Los Angeles, un concerto a scopo benefico, e altre band si sono esibite e i Metallica insomma non avevano confermato la loro partecipazione, l'hanno fatto all'ultimo, sono arrivati, hanno suonato per un'ora via grandi classici, un po' come al solito, con quelli vanno sul sicuro, e in occasione di questo concerto allo Wiltern Theater di Los Angeles hanno rivelato che il nuovo album sarà pubblicato nel mese di settembre e che il tour di supporto a questo nuovo album partirà nel mese di ottobre, e tra l'altro sarà anche un bel tour mondiale a quanto pare. Però ricordiamo ancora una volta quello che sarà l'appuntamento con la band il 22 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna. Non saranno soli ma accompagnati alla grande dai Down. In occasione di questa fantastica notizia io approfitterei per ascoltare una delle canzoni più belle dei Metallica. Bei tempi, eh? Sì. Metallica, questa ovviamente One. I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for care. Oh please God, wake me. Back in the room it's much too real. It pumps life that I must feel. But can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Then to the dream that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for dear. Oh please God wake me. Now me separate myself from who I really am. Fit into your plan. You're cutting me in two, ripping me in three. You're killing with those words you say to diverse band, c'erano anche questi Dark New Day, e a me piacevano un sacco il titolo della canzone appena ascoltata, è Pieces. Allora, di solito è Max De Rio che ha i tristassi, però oggi devo dire che me ne gioco uno pure io. Allora, vi lascio tra pochissimo con Sebastian Bach insieme al suo grandissimo amico Axl Rose, che ascolteremo con la cover di Back in the Saddle. Ci saranno anche i Mission di Deliverance e chiuderemo questo tristassi con i Collective Soul e il loro nuovissimo singolo New Vibration. Ma iniziamo con questa super mega coppia, Sebastian Bach, Axl Rose, Back in the Saddle. Riding in the dawn, along by the light of the moon. to Rock FM.